Chi la New School dice sempre a chi là che esci. Chi che esci muore, rimane chi la New School, cosa? La nuova generazione, cosa? Adesso si grippano quello a chi. Felicissima sera. A tutti questi guaglioni, con guaglione largo. Guaglione con Mick e guaglione con bandana di bastardo. E io che scendo in Dorione con microfono in mano, senza cercare permesso, o poi è tornato a San Marco. Se in Italia se pava via cava e se chiava, chi lava lava e chi l'ha avuto mo' è schiava. In effetti, luoghi è bene per si guaglione e si guaglione, si fanno rap con frate ma graffetti. Vai mo', La pigrizia ti inizia. Potresti andare a lavorare ma non sai dove si inizia. Senza arte, né mestiere, è meglio rubare che fare il carabiniere. Non faccio il rap per le banconote, fumo i cannoni, mi dimentico le strofe. Giro con le teste vuote in una tangenziale piena di ruine, puttane, bari, foresta di pugnali, cani col frutto degli affari nei pezzi commerciali. Rappano tutti uguali e non distingue i cloni dagli originali. Tu vali zero davvero, dico che sei scarso perché leggo nel pensiero. Cogli al riparo guerriero, piove merda dal cielo sul serio. Vedo sempre il mondo in movimento, improvvisamente, mare dentro, quando chiudo gli occhi sento il vento. Faccio un viaggio su nel cielo dalla prospettiva alta, acqua e sabbia è ciò che vedo, ma il mio corpo è fermo dietro un vetro. Vago poco nello spazio interno, mi attacco alle pareti come un geco. E ho sensazioni addosso tipo caldo freddo, datemi uno schiaffo, ditemi che è un sogno, che è uno scherzo. Chiuso con i miei pensieri dentro un cesto, parlo con me stesso a uno specchio. Estremamente funky il mio spirito, datemi una macchina del tempo per poter tornare indietro, per guardare il mondo con gli occhi di un bimbo. Gli amici si disperdono e quello che rimane è uno scheletro, è un baratro. Campane di vetro che si rompono nel cielo, cambierei le cose se tornassi indietro. Cerco ispirazione. Cateificio non bene, Iena Whiterman, livello estremo mo fai panno di Camposano, Clementino. Feyenoord, e livello Napoli, quando in mano parlano vanno fatte lord, e chi l'ha fatta sord, i restano bandalo. Chi pantalon all'arc, Iena che morte nel cord, ma m'allarma mai, è una scusa retta in angolo. Manca ma viri più, viene meno in dall'anga in decianca, mentimo la fuglia, a fa freestyle parlenamento mo, mentre trema il mio lamento mo, caparullante tomo, scomparo solo e veno buio, quando mi regesto, viri disonesto, mi la faccio casa sia affaristo o banca bestia mo. Testa scritta, bola bola, non c'è manca, sai aiuta scale, c'è una puzza e scanca, pare vocana antidroga, da sandrograf. E non fate più, in effetti non me ne fotta affatto, e non fate po' fake, faccio fa chi può fare agnello con me, ma stanno a piezza come Voltron. Fuori c'è da una se sprof, ad ambi i lati, flusse cari in bomba, in fronte rimbambiscio con ma bamba, angabano un bambino con ma bambi. E vega depravati, sporche terreno perché più underground era patana che frat, Clementino Camposano e mutagenico con ma sempre resta che sta armato. Flusso, potrebbero essere non scritte. Siete capaci di rap, voi siete scappati di lab, voi l'hai vista. Vi sviluppo i calcoli renali, fate i conti col mio flow, senza punti come blister. Mo lo sbaglio, e sfidarmi verbalmente, la mente fa pezzi molti per chi vale. Mostro stile, mostro finale a chi vale veramente qua. Sciolgo in dei cazzillabi sciolti, e in stili tieni al guinzaglio va. Cedo che qui chiamo Edo per il punto G. Mi chiedo se scherzi quando parli di fotere e procedo, non cedo, do un credito ai fatti che vedo. Infatti chiedo se scherzi quando parli di rap, fatti fottere. Ma lamento con Clemente, ma la palla l'hai portata perché dopo succhi. Ma la gente veramente sta alla mente, qua non cala la portata, seppellisci in sti buchi vai. Quello Bardizzi si è fatta l'ura, non su tipo cadamura. A sto giro me sacca tocca una vicimo, ci gega ne stimola, li fiacchi, li limo con una rima. Elimino cira, cimo la stile, flow dell'uno show. se pensa che basta un PC, non piccio come ti e sta simula. Te resetto quando piscio, vai bello, bello, con i discipoli che lo mescio. Veglio sul filo, l'usule, poi te moscio, la luce della gente, del bascio, lo capo. Guardami tra l'occhi, che mai poco la capa abbascio. Capo destu cazzo, cu balli fazzo, tenu come un fazzo, letto con te stucci lo muccio, cadeni sul paronaso, te rastu come un caso, un trono furno, tacchio fuso, care l'uso, sino loser, già in partenza. Non è nato di prepotenza, state fatto che sta scatto con potenza. Pulisse essere all'era, con mappa di Gagliardon, pardon, ero Pino Danila. La senza schianto, nasa all'aria con massiva, non te vergerà che stanca a mare poco, ma già custo. Custo denarte, che sto da porti in alto, quando se caprosa l'azzurra diventa cobalto. E che le cama renda libera, ma lo faccio agile. E che le cama fa diverso, ma fa pure fragile. Ma già ci trovate rimedia, ma ci danno panna sedia. Schiva chi fucciaccio porta a sedio, piace leva seta. Da barra magica, ma è tragica, perché gioco con giochi e scoggi da strategia nostalgica. Occhio per occhio, occhio per rotta, coccia chi fu figlio in droccia, chi c'è che ne abbiglia purga capoccia, parte capace e raggia saia a pista, in affiella rapace, capace e campa a pista. Fenomeno 1, sciamanti rappresenta cancia fa. Fenomeno 2, lo stile inconfondibile indorrà. Fenomeno 3, new school now meet canta ball. Fenomeno, fenomeno, fenomeno, funziona così, quanto conta di tra pianta, c'è una bagazza a panna, si l'arretro l'ha già passata, frate ma la panna, la pantananza, mi canami, ride di pezzi. Quando speak in avanza, I don't speak Italian già purtroppo. Sono troppo addosso in tradizione pop. Ho già passata, ma fortunatamente c'è stai chi con altri necessa. Spissa, rifletta, o bene chi rispetta ogni forma, tipologia e dialetta. 1, 2, 3, 3 lettera e Robby. E se ti piace chi ti suona, sai, siamo lieto, stai lì, your wifi. Oh, oh, 1, 2, 3, 3 lettera e Robby. E se ti piace chi ti suona, sai, ganja farma di your iPhone. Shamanti da scoccia come Anushi o come i Babalushi. Parano pare da luci, fanno rap i tanushi. Fanno tagli e cucirò meglio, ma sui sento uno sbroglio. Picchi fedono rimbroglio, fanno i robe e sbaglio. Mi spicchio, risticchio, si vestono, caio a riru che lacrime. Piano guassetti per bere, in testa do culo i catini per macchine. Volono fare un rap, ma una guattina angaglialla. Volono mic, po' shack, ma mic a shack, lui tagliala, you. Pompo flusso in de casse e bassi si chiurono. Parole e musica di brassi, passi e cassassi cudono. Finisce con su e con sopra, una guarara rimoffio. Ma spacchio e mi furio, più domini di ure sbroffi. Taglio come bicciu, fotti come ciccio. Ogni par come di altro e a me musi come guaccio. Tapito come leche, banda leche, leche, leche, leche. Da fare per avere il tempo di sbrassi. Su una macca a macca già di per sé. L'indole di chi lo passa lamentassi. Insinuosi e complessi. Nessi sentieri si uniscono e scindono in un avvicendarsi in sincrono. Oh no, un video non vuoi. Venivi di indemnira, vedi sulla veridicità. Mi confino in micro, affino, immune. Non è sinonimo di unito di numerosi anestetici credici. Lunedì non sarà così. No, no, no. Dice però nervosi, sì sì. Ma l'ero visto, dicesti per riscovagli. Scaccia mostre e sbarazzammi listi. Rovi che mi imbrigliano così. Spiriti e granchisco le vertebre sugli stipiti che dici scomodi. Rotto il dialogo tra più simili, ora volano solo missili. Tra gli ignoti militi messi lì ci vedo solo dei limiti. Nel dubbio tra un oceano ed una vasca da bagno. Diagnosticato lo stagno, vola vola il topo ragno. Ho visto più di una volta un fuoco esarissi in un solfia. È un pecca oltre che uno spreco. Coperto da una coltre di noia, un entusiasta latente. Sull'orlo dello svilimento sta gira per il tuo salotto con lo sguardo assente. E intero germina in capsule, stabilizza la flora. Affiora un filo di fece facile frutto di quel falafel. Filo fare un folto, filo e fondi di flessi e farfugli di porterà pace, ma rimarrà la forfora. E in cielo fiumi di porpora in posa fetale, pensa al globo e chi è che lo popola. La posta finale è un'incognita tra ragni e mai mini pony, riponi, guadagni mani, mani e manicomi. Se poi ottieni una proroga, rido sul rogue ed è uno sfogo d'arroganza. Gogo mio malgrado sudo aspettando Godot. Odo un filo di vento portarmi un fischio, prego che sia di convoglio che porta alla volta di ciò che una volta in sogno ho già visto. Verso tra le virgole, restando nell'indole, fino al lindo, mani del mio viaggio al limbo, volando fuori dai cori su di un astro decorato di colimbo. E se collasse perché più che moffo sembra mastro lindo. Mi accingo di lato fino a quando vi dilato, spingo su un terreno atro, il mio aratro cingolato. A terra l'elicottero sul quale ridecollato. Senza guerre, un muro rotto, manco troppo decorato. Sono avvolto da loni, il mio volto resta capovolto. Dopo troppi voltoloni, tra fattoni campo. Sto sul campo con le tute come tra pattoni e canto. Ingrippandomi sulle battute più di Berlusconi. Per quanto sto sconvolto, troppo sono durato. Un uomo è duro da una parte, ma floscio dall'altro lato. Attentato dopo attentato, incredibile. Sono andato dritto alla fonte, meno attendibile. Per quanto mi sono dato, ancora più mi sono fatto. Ma non è che sono astratto, sono solo strattonato. Strappo questo mondo, mi sciaggrappo. Ci resto intrappolato, pur di restare intatto. Sussurrando no dal conservatorio. Tirato giù dinamiche da moto sussultorio. Scala ritter o bemolle. Ho le fitte, sono flaccido e molle. Resto contratto, cerco un contatto. Ma hai persa la partita, manco ti danno le dita. Perché manco di tatto. E cerco un contatto, restando in contatto, che si può lasciarne un tratto. Jesus Christ. Mi infici lo spirito. Secondo me tu c'hai il cervello retrattile. Quello che tu chiami flow un pirito. Fai avanza e trans. E c'è un motivo se ti sto prendendo in giro come le mans. La tua mansione è prender pack alla velocità della battuta delle nacche. Questo è flamenco come a Cordova. Semplicemente fa anche regino come Robert Genco. Mino roba che gli innamorati dondolano sulla mia gondola. Ti faccio stare su come Gesù di Nazare. Tu sei in deficit lirico. O ci rileggi un paio di parabole. O ti ci fedelizza il rap. Questa cosa è sporca ma non sposa con l'iniquità. Dico il vero e non c'è sforzo che io lo mantenga tale. A prender cura come Renga. Alzo mura come Zenga, è naturale. Credo sta cultura ma appartenga più dell'acqua minerale. Senza equivoco, suonano le mie lupare. Il tuo cielo è scuro, guarda il mio futuro alla luce di lampare. Chiedo consulenze giù agli inferni in mezzo a vermi e germi. Rimo sugli infermi inermi per eternizzare. Cerco ispirazione su lu, su lu. È l'ultima goccia, ho tra bocca e sta garaffa. Ogni seconda ve canato scioccio da rock carraff. Roba che ci spetta. Troppa gancia, poco rispetto in da strepo. A storia se ceppo, con mano vinile, chi ne graffa. Perde staff, se ma dice graff. Sto guagliando non sa te c'ha capo. Come maionese graff, da te schiaffo. Mezzo panna, mentre ma palleggia e viaggio. Con mano per graff, da sono figlie puttana. Ma serio, sta gente fierra, sta piezza. Senta piezza, e Jennifer Lopez. Rindo stelle, non va fiera, sta male. Mentre sta mano a narraposa, programma sequenza. Compagna tastiera che frate carnale. Resta persa in da sto sclera. Prosegui in da sto sentiero. Sopra nei canali la regia. E a leggere il forte reagisco con trasti legge ma senza farmacia. Con me una farmacia, ti procura una cura. Non sono farmacista, ma sono titanico come macista. E ti schiatta capo come nascista. Sicuro che scesse con Matteo MC o sì e giura. Dimmi come senti da là la differenza tra il rap e il Muppet Show dopo la pubblicità. Fino ad ora visto uno, visti tutti pure al buio. Ma la storia cambia forma e la gente va in delirio. Menti alterate, neuroni a pezzi. Le fasi alterne della vita sempre pronti a tirarci pazzi. Minimizzo al succo e più che genuinità. Trovo l'acido di chi si è accorto che non ce la fa. Non sono super partes, sono sul versante opposto. Se giochi a Shanghai coi cazzi miei ti sposto. Finisco prima ancora che tu inizi. Mi aggiro tranquilla nei luoghi angusti dove tu nemmeno strisci. Vita grama come in sordina, poca pace dei sensi. Se il sesto è quello che tira le fila, resto a divertirmi ancora un po', poi si vedrà. Mi avvolgono i suoni nella stanza color porpora. Non si combattono, a questo cattivattano. Piani che attano, pigliano a cazzano e manica battono. Fra maniche e cravatta, start parta, camano su papatta. Capo di intra grutta, gratta via la corchia di gente gretta. Porta via la sorte sorta, per pace non vendetta. Sta specie si diletta, dialogare con il termine. Siamo solo servi del germe che affligge queste cellule. Rime che schiariscono le tenebre. Non si può attendere a raccoglierne di tenere. E tenue, e su una liga o su spacco. Peccato comparso da cruna di sacco. Acumenato, cacumbenato. Dato, sudato, tu cura presa. Nato, sudato, io un surdato. Innamorato, più tu surdato. Giro con la panda e no con l'Audi. Se ti è piaciuto il Valve applaudi l'Audi. le rime che do io so come i raudi, troppo ignoranti per i baudi. Oh, se l'arte è come merda o così si dice, lascio che mi perda il culo e non è un caso se ti intaso il vaso. Se vuoi la gasolina, porta la vasellina, così ti fa felice, si fa prima, incluso pelo pelo, prima che venga chiuso il caso. Persuasa, mette la cornice al vaso, in forma come il cacio per il caseificio, come buon auspicio cerco solo donne volte al meretricio, almeno per indole, verso ghiandole di singole, finché mi viene su un uso pillole vuol sacrificio, abituato con le briciole, se pasta è pieno aperti non l'Italia incluso l'isole. L'Italia se è desta, l'Italia fa festa, la faccenda ora è questa, dalla Sicilia fino in Val d'Aosta, sto rap rimane in testa. Il piccio s'era fatto la pasta con la parrucca di un rasta, in balia di un pollo che li faceva da baglia, troppo distante dal fatto apposta. Un prolasso che raglia con puttanate di freestyle, sul mic messa su posta, si incaglia nel cesso fuori pista, succhiando la crosta. Beccati sta varietà di stili da diverse città, un insieme in crescendo per fatti di originalità. Di questo si tratta, allattamenti ad oltranza, va da sé, questa è l'ennesima botta di tre, un invio per il bene, potenziamenti a distanza. Sen chiama sen, ogni arrivo in partenza, end to end, comunicazione al protocollo in fattanza. Cerco ispirazione.